intanto quel microfono amplifica un po'. Quel microfono era un lusso. Aspetta, mi pare che io da 7 le avevo viste da MD. Da MD mi pare che le avevo viste le batterie per il tanto. Andiamo a cassa, tu vai di fronte alle casse e di più. Già, stiamo chiamando per mangiare, e aia, ciao ciao. Ti ricordo che comunque il MD non vende solo frutta, ma vende avanti, chi ha detto mezzo una verdura, buh. Ciao Gianni, ben sentito, ciao Riccardo, ben ascoltato anche a te, vai già. Ehi, a cazzo, una modulazione, non puoi abbassarla questa modulazione di notte, che è troppo fastidioso, io c'ho le cuffie e cazzo che c'entra nei lavecci. Aspetta un attimo, va, come adesso? Io ho un pulito, va, sempre forte, ma va. Allora, questo apparecchio cosa devi fare? Quale apparecchio? Già venduto, è venuto pomeriggio, 180 euro, contanti. Ah, vai, gira, vai. Non ne ha paura, per non romperli più le palle, non stai dicendo così, va. Mica sono furbo io, a me non mi invidi in giro. No, già venduto veramente, già. È venuto pomeriggio un acquirente e se l'ha portato via. Gliel'ho fatto vedere, davanti tutto. E sempre è rimasto solo per te qua. Adesso vedete anche quello, lui si è a posto. Vabbè, cosa ne fai? Tanto ci sono quattro gatti, per questo cosa ne fa a fare? Ma. Ecco te il zinco. Beh, tu è. Buonasera a tutti. Quattro gatti e un cane. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao Riccardino, Roberto, penso che ci sia un po' storico, ma visto che ci sia un po' storico, ecco perché. La macchina, aggiustato? No, assolutamente, ho la 600, sto pericolo. Ma va giusto? Ma mi sta venendo verso le targhe, e buonanotte. Cavagano. E beh, come va questa 600? Ma abbastanza bene, per avere 370.000 km va bene. Ma ti fidi andare lontano, a girare, a fare, sì? Sì, perché conosco molto bene quello che dice. Un pezzo. Vabbè, se va bene. Solo che è cambiato la lavazzetta. Vabbè, dai. Se mi fa via la pensione, poi mi accorgo come ti comanda. Ma nuova però. È l'unica, è tanto. Se non incappi bene con la seconda mano, ti dà solo problemi. Sì, devi avere stagionale. Hai innescato, Riccardo? Con che radio la stai provando, dimmi? Questa vedi esce forte il radio, ma il poco fa, vabbè, tu mi intesi, si è venduto l'apparecchio, quello che volevo io, di 180 euro, di grido. Pinocchio? Guarda che poi ho visto il tuo bazooka sul tetto qui. Stavo dentro, c'era un'antenna sul tetto, non te la giudico. Sì, ma tu dicevi che l'antenna c'è per l'antenito. Vedi che le bugie, Pinocchio, c'è sempre il naso lungo e le gambe corte. Io ce le ho lunghe, le gambe non corte. Sì. Ma con chi s'antenna non arrivi da Sassari a Giussi? Sì, già arriva. Comunque, Emanuele, se vuoi il mio Connex 4000, mi dai 1200 euro per trovare. Sì, domani vai che faccio un affare. Va bene. Io non ne ho visto Connex. Non è visto. No. Ecco, quello grigio, quello Red Bull. È bellino. Ah, quello è il Connex. Yes. Red Bull. Ma quello lì modificato è tu. Ma penso di no. Ah, che è tutto stilizzato, quando sono stilizzati noi di solito sono modificati. No, è solo quelli che le fate e basta. Io ho tutta la roba originale. Ragazzi. Quel Midland mi piace. Altro che quello che c'ha cosa. Quel Midland è bello. Guarda, ho anche il Mike normale del Galaxy. Quello che vuole Emanuele. Mike? Ah, normale e originale del Galaxy. Sì, la metà di San Bruto, cosa mi fa? Tanto anche questo qua sta partendo. Ciao, mi, allora un po' di più. No, sto togliendo tutto, no, è una cosa da rifare, cioè. Ma dimmi una cosa, da 500 euro la metto su Facebook, 350. Non è che domani da gatto sia situata a voi? No, 500 l'ho messo perché ho fatto uno scherzo. Io lo sto vendendo quanto l'ho preso e basta. Poi se non lo vendo, se non vendo una fraccosa, se non lo vendo un pane, non me ne sta chiedendo, rimane qua. Bravo, solo che a me ci sono 50 euro. E io, ma sempre con il fischio, sì, sempre nel scambio. E sei sempre con l'innesco. Devi regolare le porte ai Nike Gaming. Mi allontano, devo andare a San Camillo a portare il mangiare al cane. Ci sentiamo più tardi se siete qua, dai. Dove devo andare a portare il mangiare al cane? Su a San Camillo. Ma che tonda. Ma che tu no, che non bene non puoi facciare. E questa è proprietà privata. Ci sentiamo più tardi se ci siete, dai. Mezz'oretta. Volete come mettere motore, peso, tutto quanto su internet, mentre la mi appena. No, chi da vuole essere aperto così ce l'ha presa? Motore che funziona, se vuoi 500 euro, chi la vuole? Cavaliere. Adesso devo fare un passaggio, oppure giustamente, ma è contento che questo mi conviene. Cosa vuol dire? Cosa è la fare il passaggio? Se vi serve il motore, per dire il motore, tu lascia la pelle, la macchina, tu si ne targhe e via. Allora, per il targhe adesso io sto portando 80 euro, che tanto mi fa. Ma tu puoi passare anche tutta la macchina, chiama il carrettrice, di coso, te la porta nel tamburo, te la porta in coso, paghi per le targhe e gli lasci la macchina. No, già parlato, già, la capi sì. Allora, tu vuole 120 euro soltanto per versare le targhe e 80 euro per il carattere, giusto? Sì, e poi ti mangi pure i pizzini, vai non amare. Chi è questo patavo? Marcetto. Prima te li davano i sudi, adesso li vuole, ma te li immagino. E allora, da voi chiede, arrivi se la porta attuale la macchina, no, la macchina non sta lì, Sì, lascia perdere. Niente, faccio così, dai, verso le targhe, lo faccio io. Ma se no, a chi la metto per questi ricambi, è finito. Se no, 500 lo pago io, lo pago, lo faccio io. Mi viene 4.000. Capo, guarda che c'era un tipo su internet che diceva che ritirava macchine a volte, eccetera, eccetera. Adesso però non l'ho più visto il numero. Era un tipo che tu telefonavi, mi sembrava, io l'avevo telefonato per la mia. Praticamente mi ha detto sì, no, beh, ci mettiamo d'accordo, 1000 euro gliele do, mi ha detto. Poi però ho trovato questo amico che ne aveva bisogno in un'altra guida, mi voleva dare 1000 euro per la mia. Però le macchine anche incidentate, perché lui usa i pizzi, tutte queste cose qua. Però non mi ricordo, era su internet, non l'ho più visto. L'ho visto io, ragazzi. Se non vuoi il telefono pure, ho già contattato la carrettina. Sono rumeni, sì, carrettina. Noi? Ma devi portare via la macchina da lì? Non ho capito. Devi portare via la macchina da lì? No, per il momento no, se la riesci a prendere la porto. Ascolta, se la devi portare via, chiamo questo amico mio, 30 euro te la porta via. Forse non ho capito. Questo 30 euro per la porta via. Innanzitutto è come si la piglia, poi rimane che bisogna fare. Ma cava attrezzi. Il calatrezzi non ho chiesto 80 euro, ci sono nella mamma. Ascolta, ma che fine di me, 30 euro la porta via. Ma è le targhe? È le targhe, la tardi. Sì, lo pagano, ma sono spiriti di Gesù. Io voglio vendere la macchina a pezzi che mi faccio qui un po' di soldi, capito? E allora fai così, poi in caso se la devi rottamare fammi sapere. Sentiamo, ciao a tutti. Già, capito già. Quindi adesso tu dici 500? 600. Ah, 600. Ma è di quelle antiche o di quelle nuove? E dove non è mai fatto 600? Non sono quel modello femminile, basta. No, c'erano le 600 con le sportelli contro vento, no, questo fa male, no. chi si è preso la spiazza? Qua c'era il babbo di Diana che andava sempre a spizze, te lo ricordo? No, questa è certa, cavolo. Dopo ti mando la foto, se capisci, c'è la mia. Se c'è quello della macchina mia. Ma mi sa bene come va? Ma sì, c'è un colpo a bianco che gliel'ho fatto io. Ma per cazzare dentro marcia da un colpo, dai. E basta. Niente mai, mi controllo il freddo, mi controllo l'olio, l'acqua. Forse c'è la qualche lampadina da mettere, in realtà. Ma va bene, dai. Ma è per niente. È passaggio del fatto. No, se poi mi interessa, però aspetta. Devo fare anche la revisione, tra poco che scade, quindi automaticamente. Se me la prendo, mi faccio calare un po' di centinaia, se la vuoi tradotti, poi c'entro io. Però io gli do 200-250 perché ci sono un po' di subito da mettere. Allora, devo metterci una pelita nuova che schiatta. Devo mettere poi, aspetta, fare i piedini perché forse la mano continua a camminare davanti, poi devo fare i piedini nuovi. E poi con la cartatina qui si scala qualcosa. Ma continua la continuata, mi dice di che poi, ma a me va bene davanti, perché, ripeto, la conosco come la macchina mia. Perché sì, la potenza può fare. E quindi la conosco bene. E io uscivo sempre con le macchine. E può dire che la macchina è molto riuscita. Mi ruota, non bene. E cosa ti volevo dire? Lì c'ha la panna nuova, quindi dove la funzionare. Sì, tu ne mai sono valutato, fare spedimenti con quella lì, aggiustarla o con la tua. Devi valutare quello. Allora, la mia abbiamo già di circa sulle 600 euro, la gabellina, e poi la finisci non per un altro pezzo, no, già, mi ha le palle piene, ormai è arrivata la mia. Questa non c'è niente, grazie a Dio, abbiamo rifatto un sacco di cose stamattina qua, la 600. E perfetto, consuma poco, si concentrata, pago poco, pochissimo pollo, benzina e assicurazione. Allora, ti dici quella, te la metti a posto lì. E questa fino a giugno è già uscito, si può dire. Partiamo da luglio ai 14 mesi e sono già peggio. Fabio ci sei. No, Fabio si è allontanato, però non è più entrato. E vabbè, tu mi manca poco intanto, te la dici sua. E che manca anche due prezzi. Ma non lo so, mettere la cravatta a tolto, cazzo, che carina, c'è via, vai bene. Quello è bello, non perché sia mia, però ha un bello scatto, è una bella macchina. Però ci sono tanti tipi, come la mia. C'è base, c'è che non è turbo, con diverse motorizzazioni, capito? Io, guarda, il mio coso è che mi piace molto è l'Audi, ovviamente. Allora, la mia un po' si assomiglia all'Audi, la parte di dietro si assomiglia. Adesso vediamo come sta dai. Devo passare la aspirapolvere perché c'era un caldino stamattina per testa. Se testa non partita, dicendo che ho fatto tutta la discesa in cacchia. Poi da mattina sua sono andati a Sassari, in Caracoccia, per la vita nuova. Come glielo facciamo usciti, non lo giuro, glielo pensa a fumo, messo un po' di più addosso. La batteria è partita, poi la scarica. Scarica, è per una rompe, ma già. È una rompe. Magari è partita blu. Vuol dire che la batteria allora sono. Chi è che lo fa? Ho già applicato la portantina, adesso. L'ho sentita anch'io, ma è proprio leggera. Cosa ti stavo dicendo? Vabbè. Mi metti qualche via, solo che ho un bel chilometri, cazzo. E quello motorino piccolo, fa anche 5 chilometri, un mezzo. Ma ecco, la macchina c'ha pensato, non 600, devi capire. E c'ha 330.000 chilometri. Ne ha fatti 6 chilometri. Beh, prima era Brescia che capitava là. Chilometri l'ha fatto parecchio. Ma ho visto che è qua a Sassari, dove mi sarebbe stato spesso, veniva da me, quante volte, cavolo, veniva a cedere, si vede parino, e l'ha fatto, ho visto il motore c'è per allego, è bello. E allora tu, fa le cazzate che ci vuoi, no? E via. Lì, fino a prima di pensione, poi, può venire, sarà anche lì in pensione. Ti ho detto, un domani ce la vuoi, te la ritorno. Vabbè. Mi ha detto, guarda, se la viene una tratta bene, già me la rispetto, va bene. Ehi, già va bene, dai. Almeno ci avete la macchina. Eh già, io sono rinato, A essere rapito, dove abito io, cazzo, guarda, io sono rinato. E non credo io, anche lì è un casino. Più che a San Camillo non puoi andare a pigliare il tratto. Certo. Oggi ci buttavo due bustoni e non metta, quelle nere alte 1,20 m. E va bene, interessante che cammini. Mi metti a posto le cantatine che ci vogliono, lampadine, tutto qua. Ma dare una controllatina e via, candele, questa roba qua. Sì, lo metto un po' di vizio, da relatore. Controllo d'olio. Mi ha lasciato un chilo d'olio, me l'ha lasciato. Vabbè. Perché il mio olio che c'ho nella macchina mia è diesel, un po' di diesel non va bene. Che olio li mette? Quello Celini? Ma non lo so se è Celini o qualcosa. Tanto più o meno uguale, 2000 Celini sono uguali. Che poi per me è tutto uguale. Devi mettere la marca che vogliono loro, che io... C'era una persona che voleva fare il nome e cognome che lavorava per una ditta che loro praticamente rifacevano l'olio, esatto, poi recupero. Non so come, tornava l'olio normale, l'ha detto. E ti dico una cosa, lo stavo mettendo a 3-4 mila lire con la lira, pensa, al litro. Anzi, come dico la cosa, diciamo a 3-4 mila lire di litro. E mi ha detto, guarda, gli oli sono tutti uguali, inutile che loro cambiano la marca per farti pagare di più. Ah, c'è a base sintetica, c'è a semi sintetico, c'è normale, ci sono tanti tipi di olio, cosa si dice? Ce n'è tanti tipi. Gianni, li mettono un piccolo additivo, fanno sintetico, lo sintetico, lo sanno loro cosa fanno, ma sono oli che sono già lavorati, loro le rilavorano con questi macchinari e sono di nuovo pulito l'olio. Ma la viscosità, a perdere l'olio, se dopo un certo numero di chilometri perde la viscosità, lui a me, io ero responsabile dei mitri, capito, dopo lavorare. Cioè, con la responsabilità di dobbiamo controllare tutti quanti, cambiare di olio, candele, quello, quell'altro, le candelette, se andavano bene. Controllavo tutto. Era sotto mia responsabilità, se qualche mezzo aveva qualche problema per queste cose qua. Quindi, io il meccanico, come mi consigliava, tutti di olio per ogni mezzo. Sì, ma allora, non perché... Le officine quando cambiano l'olio hanno un barile gigante da 200 litri e lo buttano dentro, poi quando è tutto pieno mi portano via questa ditta qua. Questa ditta qua, questo grande cappatore, hanno dei macchinari ed è l'olio nero, puntinoso, eccetera, che non serve più. Se lo fa diventare olio nuovo, perfetto, se me l'ha spiegato anche, lo sapono. Anche il clima, già lo so. Non so, ma non penso che sia quello che compriamo noi per le macchine, lo useranno per altre cose. No, no, per la macchina. Guarda che mi ha venduto parecchio lui sotto banco, capito? Non mi va di dire cognome perché non mi va. Perché ce l'ho fatto questa. E non so se tutt'oggi sta ancora lavorando lì. Angelo, no. C'è il Benito che faceva questo lavoro, ma Angelo non si è sentito. Già dico, poi più là il cognome tu vedrai. Sì, che si chiama Angelo. Aveva una moto, una volta. Ciao, esatto. Si chiama Angelo, forse il Benito è tra questa, non lo so. Ecco. Avanti. Ciao Tonino, non ti ho salutato quando sono andato via, scusa. Buonasera a tutti. Tranquillo, mi è potuto giocare. Si è alzato anche il gatto, si è spaventato e è scappato, poverino. Una voce, è già ricadito. Abbassa questo microfono di notte, facciamo a salone. Abbassate il volume. Stiamo facendo salotto, eh? E allora, adesso c'è anche Faccone tra poco. È così la vita. Riccardo, ci ho mangiato, eh? Ho mangiato adesso e poi, per la gioia di Gianni, sto mangiando un bel gelato. Bravo, dopo mangio io, prendo il barattolino che c'è in freezer e sto mangiando io il cioccolato e il nocciola. Sì, sei un po' alto, pure hai cambiato il microfono, Riccardo, cos'è fatto? Tony, dimmi che nessuno non c'ha né la vela e nemmeno il cono piatto per mangiarlo. Capito, Riccardino? che me lo sono mangiato l'altro giorno, di quelli in coppa, quelli grandi, con la vela e, con le, e col cono piatto per prendere quel cucchiaino, ma buona riduita. Buona riduita! Ma buono Giobì! Il mio aveva una vela di aiaccio. Sì, al francese. Beh, aiaccio è così, è francese, faceva la Francia. Anche il professore, ma quanti impegni fai? Beh, fatto venire la voglia gelato qua. Ma va bene, Giobì, e mi piglio il barattolino. Che poi ne ho parlato loro. E la glicemia sale. Ma usami una puta glicemia degli alluci. Ma. E tu invece che ti mangi la panna montata? Ma è anche. La panna montata ci sta bene col cioccolato, panna montata, una spuntatina di cacao e fior di latte. Ma lo sai quanto è buono. Ma tu non la mangi gelato, tu c'è una spina a polvere. Io lo gusto. Sì, sì. Non riesci neanche a gustarlo, anche Miro non vede più. Riccardi, è meglio a Gianni invitarli una, a farli un abito che invitarlo a, a mangiare gelati. Mamma mia, Tonino. Comunque, me l'avevi chiesto prima, non ti avevo risposto. Sto usando il Terminal P2, non quello a palmare, quello da tavolo, con il Midland. Con la bomba, eh. Il Midland, che Midland c'ha? Midland 43. Hai capito Gianni? Quale? 430. Adesso vado a vedere. Ma io ho il Midland modello 68574. No vabbè, scarico il telefono, fa vabbè, sta caricando. È a 28, non ce la fa. Vabbè tu, dai, comunque. Aspirapolvere non l'ho mangiato melo. Fatto bene. Io me l'ho super succhiato lo stesso. Era buono, no? Le corne sto facendo cosce. Aspetta, vado a prendere il palattolino, vado subito. Bene. Avanti, Riccardo. Dai, e tu oggi non ne avevi gelato da gustarti? No, guarda, non ne compro più gelati, ne ho comprato cornetti, ho comprato un pacco di cornetti, un pacco di ghiaccioli e un pacco di biscotto gelato, sai quanto me ne ho durato? 2 giorni. Ah, oggi ho comprato anche i biscotti gelato, sono già finiti. No, ne mangio troppi, a me non mi fanno molto bene perché sono diabetico, quindi non è che ne posso mangiare. Solo che sono goloso, mi piacciono un bel. Ho capito. Oh, sembrava cattivo, l'ho assaggiato, è buono. Stavo mangiando quello ai frutti di bosco. E la cassa, come si chiama? La vaschetta con i frutti di bosco, però buona. Poi sennò c'è anche la cassata, ci sono ancora 2 biscotti, i cornetti, i ghiaccioli anche, no? Qua ce n'è ancora i gelati. Io ne ho comprato un bel, ma ne mangio tutti, che te non ricordo quello che mangio. Sono goloso, mi piacciono troppo queste cose, come mi piace la frutta, io devo mangiare solo arancia o mele perché ne mangio di meno, ma se no, se compro anguria, ciliegie, albicocche, quelle a chi di me le mangio? Anche io le ciliegie, soprattutto le ciliegie, mi hanno dato una cassa da portare in camper, buona, e i miei genitori se ne sono andati al mare con me, se ne sono andati, praticamente Babbo si è andato al mare e intanto me l'avevo mangiato con, e intanto mamma era erano tutti e due fuori, ci hanno lasciato lì giù perché stavamo guardando la TV e ci siamo mangiati anche le ciliegie. Le ciliegie pure la tira l'altra, bisogna lavarle bene, naturalmente non mangiare senza lavare, perché ci mettono la medicina le ciliegie, bisogna stare molto attenti. Io li metto anche il bicarbonato quando li lavo. Ho visto sui video che metti, prendi una ciotola, metti l'acqua bollente, il sale, metti le fragole dentro e dopo tipo una mezz'oretta escono tutti i parassiti, poi non so se è vero. Le fragole le faccio la... metto il limone, un po' di zucchero, poi una volta che sono tutto, è fatto lo sciroppo, gli metto la panna sotto, e poi cos'ho buono. Io da un po' non mangio fragole, Sto ancora sto aspettando, però ne ho comprato una nonna, però non è annata, non è ancora a tempo, ho già l'uva. Adesso c'è l'uva che è dolcissima, non la posso mangiare. L'uva, ci sono tipi di frutta che contengono più zuccheri, capito? Ho capito. Tonino, ce l'hai fatta? Sì, tanto che si sconfinica. Allora, samozana, paratolino o nocciola? A me piace molto fior di latte, cioccolato, fior di latte e queste cosciuline. Pochi gusti io mangio, un gelato. Ah, tu già? Ah. Oh già. Sì. Quella tipa ieri ci ha scavato il mio barattolino, è questo che l'ha mangiato, la massa. Ah, vero? Ieri te ne assaggio un po', che è un cintagliosa di vita. Ci ti fidi come le raga? Il topo è passato. vabbè, dai. Andrà bene. Topa, si compra il gelato. Poi domani devo andare che mio figlio deve dare l'esame. E dove? Lo scientifico, quello la mia di maturità. A te mi ha portato la svegliata? E domani mi devo andare a prestare anch'io, perché prima devo portare il cane qui alle 9:15 e poi andare a prendere a lui e lo porto a scuola. Gianni! Ehi! Tyson come sta? Cosa fa? Ma non è qua, sicuramente se n'è andato in terra a prendersi il fresco, perché adesso in questo periodo si sdraia in terra. L'altro giorno gli ho fatto la luce. Ah, ho capito. I bassotti questi non sono molto amanti all'acqua, solo uno che si fa, solo un bassotto che si fa il bagno tutto, si immerge, è l'unico. Poi passano 3 anni già se lo fanno il bagno. Nella piscina se lo fanno. Dipende, qualche volta sono caduti in piscina e nuotano anche i pastori australiani. Comunque no, cioè, abbiamo anche tipo una vasca fuori messa bene in cui li laviamo e si possono stare anche dentro. Ah, vabbè. Nonno Teso sta fermo, si fa fare tutta la doccia, capito? Sta fare la doccia. Ah, ho capito. No, invece non stare fermi, no. Non so fare, però quella che è la bassetta amante dell'acqua, quella quando vede l'acqua si vuole fiondare dentro. E poi adesso ci hanno caldo, poverino, anche loro. Quindi l'altro giorno mi sono fatto la doccia io. E subito dopo è venuto, lui stava girando, rigirando, si vedeva che era l'anima in pena. Poi guardava dentro la vasca, ha detto, io vieni, te lo faccio anch'io, anche a te il bagno. Ah, ho capito, ne hai approfittato. E allora, già che era sporco il bagno, cosa, te lo faccio anche a lui. Non te glielo ho fatto, poi quando è uscito dalla vasca si è tutto scosso, tutto bagnato, come a casino. Ottori, se ci sei, il tuo cane come si chiama? Ieri la tua cane si coglie più, cioè, ora si chiama Luna e la tua tutoletta. Ah, e quelli se ne fanno fare il bagno, si bagnano, no? Certo, no, adesso ho detto il balcone, se ne faccio poi il bagno, mette i guanti, faccio un casino, rimane io lo blocco, se lo lavo lì, non lo lavo io. Sai tu c'è a fare bravo, io qua ci sto fatta di più. Faccio umido, però evito di lavare la testa perché le orecchie e gli occhi sono un bel delicato. Con gli uccelli, tutti, queste cose qua, è un bel occhio. Io ci vado col fondo, ci vado. Prima con martello grande, con la mano, con lì. E poi con l'asciugamano. No, io li asciugo con l'asciugamano e poi lui non mi va di meno di stare un po' umido. Si asciuga 5 minuti. No, io con l'asciugacapellino non lo sopporta lui. Lo devo asciugare, io c'ho l'asciugamano grande, come lo trovo la vasca, lo abbraccio, lo metto l'asciugamano e li faccio, e lo asciugo. Poi lo lascio così, no, col caldo che c'è, va in terrazzo. No, aspetta, anch'io ce l'avevo. Adesso sì, c'è caldo, diverso. meglio lavato che gira un pochettino di freschino, capito? E io non lo lavo tanto spesso, però è sempre pulito il mio, io ripasso la salviettina ogni volta che scende giù dalle zampe, negli organi genitali, nel sederino, ripulisco tutto il pelo, tutto quanto bene, muso, quanto c'è. Infatti quando l'ho messo nella vasca, certi cani fanno l'acqua nera, lui proprio niente, era pulito. Comunque già piace quando lo lavi, Tu di cantiere, lavi i cani. Ce lo fanno da soli, ma... Lui cazzo. Deve essere facendo qualcosa. L'ha detto lui, ha detto che c'hanno una vasca e ci tuffano dentro. Sì, sono qui, scusate, mi stava parlando mia sorella. Saluta tua sorella. La saluto. Ciao Francesco. Ciao signore, chi mi domani? Ciao Francesco. Ma ci saluto. Lo so, è timida, è scappata. Aspetta che la riprendo con il lazzo. Ma che addirittura? Ricati. Tipo mammutone. Ricati. Adesso è che sta tornando. Mi saluta zio Tonino e zio Gianni. Ciao. Zio Tonino e zio Gianni. Non è mentira, ciao. Ciao Francesca, ciao. Ha ragione lì, non siamo gli zii. Siamo solo delle persone che conosce. Che conosce tramite radio, basta. Ciao Francesca, bacione, c'è simpatia. Ciao Tonino, ciao Gianni. Io ti dico anche poco fa quando salutavi a Roberto, ero in ascolto. Orecchio di porco. Ah, orecchio di porco. E stavo facendo cose, voi siete il baracchino in acceso, non potevo modulare. Io invece non stavo facendo nulla, stavo facendo l'orecchio di porco, come ha detto Riccardo. Perché prima di entrare io ascolto solitamente. Poche volte mi succede che accendo il russo. Dovrebbe essere così sempre, prima si fa l'ascolto e poi si entra, così c'è già chi c'è, chi non c'è. Tu mi ci stai bene dentro la macchina, sì. È un po' piccolina, mi è stretta di maniche. E se viene tutto dietro, porta. Ce l'ho per l'abitudine, dai. Non è più come la mia, niente, sto chiusa, dai. Ma è orribile. E comprando il pezzo e portandolo a qualche altro, vedete? Allora, seconda mano. Come si chiama? Come si chiama? Giusto, ecco. Trovato da Tatoni, troppo il pezzo vecchio. Ecco per cacchio faccio a comprare il suo pezzo. Grazie sia, non siamo completa. E il potenza ha detto che la macchina purtroppo lo cammina un po' sul portale, quanti 5 poteri ci sono, il cazzo la parava, se la lascia perdere. E quanto vuoi? No, aspetta, l'ho ben fatto, però parlando con Valentino da carico, mi ha detto, se Pietro mette tutto nuovo, lo si batto il 5-600 euro. Vai, vai. Dopo magari raccontigli se si faccia la sangoccia, anzi se sei quello, come ha fatto a me. Si è rotta prima la bambita, si è dovuto comprare, come si chiama? No, la bambita, non il silenziatore, come cacchio si chiama? Quello che è sul tegasso di scarico, insomma. Si è rotto quello lì, ho dovuto cambiare quel pezzo. E poi ho dovuto cambiare la sonda lambda e poi si è rotta la centralina, anche 1200 euro, prima mi sono rotto le palle. Sì, ma qui è così, mi aggiusta una cosa, così ho penato, va bene la macchina di tanto, non c'è il cazzo. E' rotta, è così, forse può gelato. Stai mangiando il gelato, si è scongelato? Scongelato il gelato? Sì, ma già lo sto gelando in bocca io. Puntacelo dentro il microonde se non vuoi aspettare. Tonino è un vulcano in eruzione. No, io quando ero piccolo, vado giù un cappello e non c'è il dolore. Che motore c'ha, lui appa? Quale? La Siccia. No, ma che sarò male. Sono salito da lì a 100 metri. Ma a pescare ce la facciamo andare con quella macchina? Sì, a voglia. Ma plantiamo la c'è Ah, io cazzo, sono salito da qualche anghiero. Ah, allora va bene. ce la fare a minustrire lui. Riccardi, te ne compri il pesce, dobbiamo andare a pescare, te ne compri il pesce? Dipende. O latte noi peschiamo, o latte e basta, non peschiamo altro. Se Gatti ci viene con lui a pescare. Sì, già vengo anch'io, porto anche qualche contributo, porto tutti gli ami. Io ce l'ho attrezzatura, non ho bisogno di ciò, di bami, piumi, tutto quello che serve. Devo comprarmi Starlight perché li utilizzo. Io uso anche gli ami grossi per il montaggio. Beh, tronchi, morene e polpi. Ce li ho, c'è anche il filaccio nel fronte. Se cambi ci viene con noi a passare. Sì, già ci vengo. Riconosco a tutte e due che non vi ho mai visti in verticale. Guarda, quando vedi a mezzanotte dirai, la persona che ho conosciuto sono zero. Chissà se ce n'è orate adesso. Ma adesso dovrebbe essere il periodo di notte. Dalle 8 in poi, vabbè, bisogna piantarci le canne lì prima che se ne vada la gente, mettiamo, ci prendiamo un po' di sole, e poi come se ne vanno. Ma voi pescare, siete soltanto fatti con le case in mezzo. Ma voi pescare dalla spiaggia o dalle rocce? Ah, io penso dalla spiaggia, no, dalle rocce no, di notte no, tu. Ho avuto una brutta esperienza, perché ho aggiunto un amico una busta, se non era stato un bar di carabinieri, era stato un busta di su. Ho finito la spiaggia, va bene, comunque anche in spiaggia ho finito la giornata, c'è tutta la spiaggia, non sa mai. E anche io ci ributto. Certo, se passa qualche pesce grosso, lui mi giù a testa. Non leggo al coso, un po' attaccato. Lei sta senza video, va bene, avanti, capito. Ehi, da, vengo anch'io, porto tutto, porto anche le sedie a campeggio, porto anche la cellula. Va bene. Allora andiamo direttamente al parapendio. E atterriamo in spiaggia, partiamo da Sassari. Al buio, no, te ne mangi. Tu lì, dimmi che cosa abbiamo visto ieri nel cielo. Non posso prendere, aiuto! Aspetta che ci sono fatte girate in friggia, cioè qui ci scioglie, troppo le stiamo mangiando, ragazzi. Siamo rimasti incantati, Riccardo, abbiamo visto questa luce che ci veniva incontro, verso di noi. E noi dottori, prendi il telefonino, prima questo incontro, qua sembrava un pettonino circolare, ho aumentato l'ingrandimento del circolare come un disco. Era sempre cos'era, era un aereo di quelli di linea, perché poi ho visto le frecce. Vabbè, non lasciamo perdere. Ma passano sempre gli aerei qua sopra, di quelli, vabbè, quelli normali, non so come spiegare. Sì, ma lì a portatore si passa per basso, perché è per la terra più piccola. A portatore si passa a basso, e con quel faro che c'ha un bel potente, cavolo, sembrava un foro vero, sembrava che stesse fermo, capito? Sempre nella stessa posizione. Addirittura Tonino l'ha visto anche circolare. Non capito, ma Tonino ha detto che sta prendendo il gelato. Che cosa sta prendendo? Non ho capito, Tonino, che cosa sta facendo? Sta prendendo il gelato. No, non so, io non ci sono pure. Sono a casa. E dico, che cosa ha detto? Aspetta un attimo, no, non ho neanche capito bene. Che se ne stava mangiando troppo, lo metteva in freezer. Ah, allora sta tornando, non avevo capito. Ho già. Bisogna vedere se lo mangia prima di arrivare al freezer. Ah, cosa ho già messo a posto, figli di dire. Mi grido domani. Io si quando vedo la maschetta vuota, me ne ho mangiato la maschetta intera l'altro giorno. No, cazzo, senti che fa male, cazzo, un pochettino sta già per fatto, ciò. Vabbè, un barapolino e quei grandetti, ciò, ha preso per la settimana. Ehi, a me, tu sempre mi dai una maschetta a chilo fino avanti. Troppo. Non so, però io di queste cose sono un bel goloso. Se non da mettirmi su, mamma mia, canto mi piace. Troppe grazie, se la metti tu, fa bazzemare, raga, per chi? Non è per noi. Tony, per noi non c'è nulla. Ogni cosa che tu mangi per noi non va bene. Per cui non dovresti mangiare nulla. Sì, per loro, ma io mangio. A Tony non gli piace l'aria, l'aria fritta, mica quella è buona. L'aria fritta, ma lo dice, io mangio, e quando mangio, mangio. Hai visto le cose come le mangio, eh? Io a me non mi piacciono le cose. Ecco, come mangio? Mi piacciono, non ho capito. Ah, è già che non gli piacciono le cozze. Ce lo vedi mangiando, pare una fila a polvere. Mamma mia, Tony, a te gli piacciono le cozze. Io mangio tutto, non sono vegetariano, io mangio tutto. Ah, quindi mangi tipo Amazon, dall'A alla Z? No, un attimo, dall'A alla Bulu. Perché per esempio i pesci come i zirri io li odio, non li mangio. La sabina è l'unico pesce che mangio piccolo, se no vedo bambini morati da mezzo chilo in giù. Ancora ridi? No, no, peraltro, anche a me la sabina mi ha fastidio, perché invece quando è bello grande spesso, tra l'altro, tu, c'è un chilo più e mezzo bene ancora. Anche a me mi ha fastidio. La sabina, vabbè, è un pesce che non so più spine, che sono leggere, ma io faccio i filetti, le spine non le tocco, manco per le sabine. Faccio il filetto, poi gli faccio il panato, il fritto, e canta con questo buono. E poi ricordi una cosa, quando andiamo a pescare, vuoi dire questo è pesce fresco, lo usineggi domani e poi mi danno la risposta, è un signor pesce, non come quello che compri. La soddisfazione di prendere il pesce, capisco, ma io vado per divertirmi, ci ho culo pescando, la verità. Io mi diverto che è un passatempo, mi rilascio il mare, dai. Poi c'è la compagnia a parte mente, come posso ridire. Ma io anche se vado solo trovo sempre gente, perché sono abbastanza socievole, parlo con tutti, quello si avvicina, dice beh, ho preso qualcosa e parliamo, perché esco a te aiutare, sai come fai? E socializzo solo un po' tutto. Oh già. Sì. Tu per la maggior parte prendi, quando vai al mare prendi con la canna da pesca? Allora io ho fatto per tanti anni pesca subacquea e sparavo col fucile tutto. E poi una volta mi sono incastrato e me l'ho vista molto brutta perché non riuscivo più a uscire, era dentro la roccia e sono arrivato sopra e ho preso il respiro, mi sono attaccato al pallone e meno male è passato uno in barca, mi ha caricato e me l'ho vista brutta lì e non ne ho più usato il cucino. E allora ho preso di nuovo con la canna da pesca, ma pescavo sia col fucile che con la canna da pesca da sempre. Poi il fucile l'ho mollato. Ho capito, comunque perché l'ultima volta io che sono andata all'Argentiera c'era questo bambino che pescava con i nonni. E aveva anche la fiocina, quella con l'elastico, e ha detto mamma, vai a socializzare così ci porti anche la cena, alla fine sono tornato con un polpo. La regala? No, l'ho preso io, mi ha prestato la fiocina, quella con l'elastico. Ah. Come questa fiocina con l'elastico? Sarà un fucile con l'elastico? Praticamente è come un tridente che poi lo carichi, è come un fucile praticamente, è lo stesso, più o meno lo stesso meccanismo. Gianni, anziché avere la ragione alla fiocina. Ehi, ho capito, ne ho avuti io, cioè, io ho pescato sul bacco, ho fatto tanti anni, ho avuto un arbaletto, due elastici, io per pesca di pesce grosso, con un mulinello e tutto. È stato campione anni 75-80, mi pare, l'Arbalet Champion, si chiamava Arbalet Champion, quello che avevo io. Io avevo il Ministero, ora ci cucino su Bacca. Sì, ho avuto crisi, Ministero, e mini Ministero, certo che riconosco. Li ho avuti tutti quelli lì, tutte quelle serie lì, poi ho avuto l'Homer, ho avuto un sacco di fucili, ho avuto. Cresci, ha avuto diversi. Io ho pescato sul mare, l'ho fatta per tanti anni e prendevo anche un bel po' di roba. Andavo dopo il quinto, tra il quinto e il sesto picchio, lì dietro gli scogli, dove c'è il mare alto, lì sapevo le tale giuste giuste delle seppie, i punti dove c'erano punti, dove c'erano seppie, io mi davo sempre. Io da quando ho avuto un trampo una gamba, mi stavo a casa tanto, ho fatto una coppa, mi sono fatto con il padre, io in Eva, non sento più, mi è fatto un sciopero. infatti andavo in inverno, prendevo le file solo in inverno, andavo in montagna, in Vigno, Canalzei, Moena, Val di Fassa, Capiteto, per esempio, da Bolzano. Ho preferito più la montagna che mangiare lì. Ecco, e tu ci faccio la spesa bene per tornare a casa. Invece tutte zone tipo, come ti posso dire, Limone, sono stato a Desenzano, sono stato, come cavolo si chiama, a Sirmione, tre o quattro volte, che mi è piaciuto un bel, sembra proprio cervo continentale Sirmione. C'è il lago, di Garda, piscini che vengono in riva a mangiare dalle mani tue, tutto quanto, un bel bello. Si vedono le carpe nel fiume enormi, che passano, c'è il ponte che passa all'entrata del paese, è una zona, la zona vecchia, no? E c'è un ponte, lì c'è il semaforo, devi spegnere la macchina, il semaforo non si può lasciare acceso. E poi devi parcheggiare, e sei obbligato a parcheggiare, i parcheggi sono a pagamento, poi devi andare a piedi per il paese, e il paese rimane vecchio, e c'è questo ponte, che passi e vedi le carpe che passano sotto al ponte, ma grandi, enormi. Poi per chi ama gli animali, sembra Portocervo, sembra fatto tutto di, ci sono per i gelatini, fanno tecche, tutto così, tutto il viale, tutto, sempre cerca di personale, da tutte le vetrine si trova la richiesta di personale. Sì, è ricadista, volevo dire, a proposito di questo che hai detto, anche alla gente, se tutti i cormorani che ci sono, ne avevo trovato un giorno, uno ferito, si faceva toccare, si faceva prendere sulla mano, si faceva dare da mangiare. Comunque stavo girando adesso, so che sono uno stalker, e so che la tua batteria si scarica anche 3 volte al giorno. Ma di che cosa? Del microfono? No, il tuo telefono scarica anche 3 volte al giorno, è un problema. Sì, l'ho cambiata da poco la batteria, solo che lo sfrutto molto, io lo uso apposta nel computer, immagina. Già lo so che lo sfrutto, c'è molto fatto. Niente, io lo già ero già quasi più saggiato, io ho fatto la lavoro maggiore e ho fatto le frizzole, già la bella, già la madre, già la pescatore, già pescatore ho mancato, roba di pesce. E l'isola Bella ha visto dei pavoni, guarda che mi ha fatto la coda, tutto alla fiori, ma è una cosa bellissima. L'isola Madre, roba antica, orologi, ma del 700, tipo il castello, le pietre nere, scusa, ma apprezziamo. Guarda, forse favolosi veramente. Poi da sera io ho mangiato un albergo che da sera c'erano tutti i vizi rossi, la mattina facevo una colazione al paraculi proprio, penso la prova a mangiare, ma non è che è. Niente, la sera appena cascata la forchetta, ci sono girati tutti in scatto, ehi, ma come hai fatto la roba in terra? Ma se vedi in varia? Io a Sirmione c'erano i tedeschi, un bel tedeschi c'erano, mangiavano uova, marmellata col burro, uova soli, un bel di roba a colazione. Noi mangiavamo le patte, cappuccino, bubacca, tutto il resto lo lasciavamo. Marmellate, di tutti, di più, loro stavano 3 ore mangiando a colazione. Era self-service, stavano sempre prendendo uova sode, queste cose qua. E io mangiavo solo, facevo colazione normale, prendevo 2 pasti. Buonanotte, io vi devo lasciare, che domani si trabaja. E quindi si prosciutto, mozzarella, io sono c'è la salame a metà, se non c'è succo d'arancia, yogurt, cose che non c'era, di tutto. Quindi loro sentavano, andavano anche a Dio. Niente, io mi ricordo che era un po' un'amica, lei rimaneva in albergo, mi andava preso la macchina, faceva la voce, andava dentro la precolazione. E già rimango un'altra mezz'ora, poi mi faccio la doccia e scendo. Ok, ti aspetto giù. Andavo giù, e poi lo mangiavo già. Poi quando più o meno sapevo che arrivava lì, allora, caffè americano, sai, scende lì, e poi è fatto la doccia, no, non è voglia. perché quando a Guanzare prendeva la ferrovia, saliva più a 2800 metri, a quando a Guanzare preso l'una, due e mezzo a mangiare qualcosa, però non la capisco, ma si sono capire che mi trovano un po' prima. Però l'altro dopo non è pensato, guarda, io che ci sono a oh, scusate se disturbo, volevo dire che devo andare, vi saluto e vado a dormire e che domani si trabaja, domani lavoro. Riccardo, di che non sto scherzando, se vuoi venire a pescare ti fa piacere? No, certo, se mi fa piacere, un giorno. Noi siamo deciso per venerdì andare a pescare, poi? Venerdì è possibile, vedo. Ok, ci fai sapere, dai. Il libro anche della genitoria, della lunga. Vabbè, Riccardo, ti salutiamo. Buonanotte. E allora ci sentiamo domani. Ciao Tonino e ciao Gianni. Buon 144 quando l'ho fatte. No, certo, vado a chiederglielo a babbo e ti faccio sapere. No, buonanotte a tutti che stacco. Gabba, è giusto per chiedere al tuo genitore. Ok, ciao, buonanotte, Riccardo. Prese la carriola di nuovo? No, no, quei tempi sono finiti. Però male, dai. Ok, ciao, buonanotte, stai bene. Buonanotte. Avanti. E io sono stato diversi posti, ho fatto un bel viaggio, specialmente quando c'erano quei viaggi low cost, ogni settimana hanno avuto. Poi sono stato anche a Catania, in Sicilia, e sono andato a Irone, mi dicevano, come si chiama? Uno dei altri paesi, vicino all'Etna. E fatto sta che c'era questo caltagirone, la festa dell'unità, da Cavalera, e c'erano questi cantanti, e io poi mi hanno messo per votare. E poi tutto tipo a cantare, ma appariamo, meglio di me. Faceva schifo, la verità, no, sono molto basso. E cantato completo. Ma scusa, a me non mi è piaciuto perché devo votare alto. Si è casino. Poi sono stato a Napoli, ho preso le scarpe, ho fatto l'isola di Capri, bellissima proprio. E che ti posso dire? Niente, sono passato a Spaccarapoli, Spaccarezzai, meglio niente già. Io sono stato a Pisa, sono stato a Roma 3 o 4 volte, dove siamo andati a Viareggio, a Verona, dove cavolo siamo andati, e un sacco di luoghi a guidare. Invece quando c'erano, ne abbiamo fatto diversi di viaggi, ma quando c'erano quei viaggi loco se ne abbiamo approfittato, perché abbiamo preso viaggi anche a 15 centesimi. C'era gente che lo stesso viaggio l'aveva pagato 150 euro, in aereo. Guarda, è un mercato forte che io sono già stato, poi a Roma ci ho fatto anche militare, fate conto. Milano non ne parliamo, c'è la due volte all'anno, mi sa che presta. E a Parigi pure a Milano, trovato. Poi sì, Modena, Bologna, Genova, Torino c'è Parigi, poi dove ha fatto? Pisa si l'ha fatto, Firenze, poi ho fatto Venezia, Padova, Mestre, e ci sono le cose che c'è, insomma l'Italia me l'ha girata, dai. Io ogni tanto d'estate partivo a razzo via, quando ero scappato mi ha fatto i viaggi, guarda. Poi anche da Arcicolo mi ha fatto Parigi. E quindi già mi sono divertito, vai. Il mio sogno di calcetto sempre è andare alla Gran Marina già. Firenze e Venezia ci sono stati anche io. Sono dimenticato di dirlo. A Venezia Manuela era piccolina, ci aveva 4 anni, era con noi e c'erano questi cinesi che gli facevano bye bye, la salutavano. Poi a un certo punto ci giriamo e vediamo che Manuela, cazzo, vediamo, Manuela è scomparsa, via, cerca Manuela da una parte all'altra, andiamo disperata. Beh, lo sai con chi era? Con questi cinesi se l'hanno portata a prendere il gelato, ma quando mai io non vagavo a dirlo alla madre, prima guarda che gli sto a parte che non l'avremmo lasciata, perché con niente che non conosci non la lasci. Ci siamo fatti addosso, guarda, ci sono stati 5 minuti di terrore. Ehi, guarda, posso capirti perché ti spiego cosa è successo a me. C'era mio figlio che avrà avuto 12 anni, è venuto via con me che eravamo sopra a Roma. Addio per la telecamera, la settimana di signora. Beh, riprendo un po' il filmino, mi giro, mio figlio non ce l'ha più. E dove cazzo lo provo? 300.000 persone in giro già. Sono diventato scemo, cercavo tutte le bandiere della WIN. Meno male dopo tanto l'ho trovato, cazzo guarda. Io ho un lavoretro più grosso, tu hai tre cazzatori che ti parlo, non la parlavo. È una tua voltaccia oppressi quotidiana, allora la mamma, cioè sposi, eravamo senza figli, siamo andati a Venezia e praticamente stavamo parlando, a un certo punto io mi sono fermato a guardare questa vetrina e lei ha continuato l'unica, però ho messo la coppia, mi girano per la quotidiana, però ci avevo tutti i biglietti, ho quattro per viaggiare, ci avevo tutto io. Quella era disperata, cercando, perché sono trovata piangendo, lui era disperata, ne stava cercando da tutte le parti, anche perché lì non poteva trovare, c'aveva i soldi, io, i biglietti, io, una, quindi non c'avevo a lui. Sì, ma questo, perfetto, non te l'hai proprio sicuro. E vabbè, ma allora ti dico, non erano molto di volo a me ha scoperto il figlio, tu sarebbe un gruppo, per carità. Sì, ha detto insomma. Poi capito. Ma è stata messa 41 anni, 78 anni. Allora è trattato. Praticamente tutti e 86, 34. E sono già grandi cibi. Sì. Poi e dopo la piano pensiamo, ma meglio invecchiare già. Vabbè, c'è un invecchio, vuol dire che ti sei fermato. Non scappa. È andato. E beh, pure si è appunto girata. No. Non mi sono informato perché ho tutte altre cose per la testa, che non sai, il problema che sta per avanti. Tu che a principio ho messo il mio pic che c'erano due piccine, tre io e mia figlia, e per forza. L'ho alzato un pochettino e ho messo il blocchetto sotto per non lasciare il disco per terra già. Beh, già l'ho visto. Non va bene. Domani ho portato tutta la figlia a polvere, carne, che lì ci mettiamo più cane dentro. Mamma mia. Ma il perro non te lo toglie la scappa, ma si intrufola in mezzo alla bocchetta. Ma vuoi buttare via quel copicellino che lo usi? Quello che riesco a tirare a filo. Era una cosa fatta. Tu pensa che era inchiodata anche le ruote, sotto a freno a mano, la mano si diceva, non camminava. Dopo tante spinte, poi la poi si dice, e poi la piazza non sa camminare, la lampadina. Ma non siete riusciti a mettere molta strappola? No, no, no, no, già. Ho fatto tre vie di scesa, ma dietro l'altra, niente, non ha messo in moto, la batteria zero proprio, non ne prendiamo l'uscita che c'aveva dopo, perché poi la domanda nuova ha più dopo per il mondo. Perché bisogna metterci il grasso nei morsetti, no? La gente non lo sa. Vabbè, però ci vuole più grasso. Va bene, oggi avevamo un caldo, guarda, poi per carità, poi faremo qualcosa. No, perché molto più grosso da figli, l'uomo ci ha fatto la macchina chiusa. E niente, vedo qua che non ha messo il motto, solo per due nulla, è normale. Poi sono andato con la pizza dei costi, 50 euro l'ho comprato. E come si? Cosa? Con la macchina sua si è andata lì con. Sì, sì, e beh, con la pantuffa. Andava. E lì c'è la panta con l'oro finanza, dice. Ah, non vogliamo. Non vogliamo. E vabbè, interessante che vado, adesso. Come era ferma, magari il lurio e le candele le devi già fare, o i filtri, dai, almeno queste cose. No, è iniezione. È iniezione, c'è la candeletta. Penso alla candeletta, ma mi dovrebbe mettere a primo colpo, non ha problemi, a benzina. Sì, vabbè, ma ogni 20.000 km le candeletta sono cambiate. Anche se è iniezione non c'è nulla. C'è le candeletta. Sì, vabbè. Io vado anche su altre cose, ma anche compro voli, domani presto. Perché domani mi devo andare ancora, alle 9, a finirmi quel lavoro, poi ci pagano, capito? Che lui fa la mano, ma è per prima parte di vabbè. E vai, ti finisci quel lavoro. E cosa? Oh, io, anche a disarci con la mano vera, mi sa che sono stato con ma non è vero, la vedete pochi, la strappare giù, l'hai dato da una. Sì, come prima c'era un attendino che sta tenendo tutto con bazooka. Ma quello di bazooka, anche se li metti sul tetto, non prendo una buccia, sono antenne così di fortuna, di quelle che piace di ricavare tutto. Sì, ma lui a me mi arriva bene, giustamente perché sono vicino, ma lui è amuroso, manco ci arriva, manco lo sento. No, ma infatti, magari adesso che sul tetto può darsi. No, manco un futuro di niente, poi da. E non tiene a 4 soldi, mi bazooka non costa una, non tu puoi niente, vuoi fare 3 un manga vero, se. Sì, io, ho fatto donna.